ascolto un attimo. Quante volte ho sognato la tua ingenuità per cercare di essere di nuovo io. Mi è bastato guardare un uomo che piange senza sapere perché. Sono tornato a sentire il suono dei miei passi, dei miei pensieri, sentirmi vivo. Ora che piange sono io, e piango per un sogno che non c'è. Questo sogno è stato solo mio, io però non l'ho vissuto mai. Ora che piange sono io, e piango per un sogno che non c'è. Questo sogno è stato solo mio, io però non l'ho vissuto mai. Ora che piange sono io.